tua voce riflette il soffitto di un bianco asettico e rassicurante per te. Non ero uno spreco. Scivola via la mezza notte silenziosa e inutile, la tua voce riflette il soffitto di un bianco asettico e rassicurante per te. Non ero uno spreco. Alza il petto e affila gli occhi, che sono le armi del disertore. Non vale la pena, mi dicevi, mantieni pulite le braccia, le stoffe non nascondono la vergogna. Sangue è una brutta macchia. E così faccio, parlo per ultimo, le magre parole non reggono il peso di questa ridicola musica. Sento una forza così antica ed è ovunque, mi sforzo di capirla. Uno spazio vacuo che dilaga, che non posso riempire né coprire, nemmeno dalla nostalgia. Ma le mie sono parole, suoni gutturali di bestie da palco. Non posso che dissetarmi delle anime altrui, poiché io sono il mare che le contiene, perché niente è mai abbastanza, niente è mai abbastanza.